是没人停止祈祷，放出了恐慌，身体里的海浪翻滚岁月的文章，文章焦虑的禁区，同一口径的真理，让空气逐渐转变的清晰，变得扭曲，变妒忌，变得离奇，留白支离破碎的旧自己，自己，自由，在我的伤口上划过之后，心虚化 una puntata piena di cose, o quella di oggi. Avremo un collegamento da Londra, un altro da Catania, e soprattutto vi volevo anche dire che la musica che sentite in questo momento di sottofondo me l'ha spedita la fantastica Francesca Grispello, che con il suo ufficio stampa Simpress 44 ogni tanto appunto mi manda della musica coxica. In questo caso stiamo ascoltando un super nuovo album che si chiama 2084, The Piano Room, ovvero 2084, la stanza del piano, di Irma Records. Riprende di 2084, The End of the World, di Bulam Sansal, che riprende 1984 di Orwell, immaginandolo in una distopica dittatura dello Stato Islamico. È stata una lettura recente, lo stimolo per immaginare una sorta di soundtrack prima ancora che Hollywood faccia il suo tema ancora una volta. Detto questo, non abbiamo ancora detto chi è. anzi, andiamo avanti. Per comprendere il senso della nuova avventura The Piano Room è decisivo addentrarsi nelle fonti che hanno offerto a, infatti stiamo parlando di Francesco Gazzara, numerosi spunti compositivi in un album davvero unico nel suo genere, per premesse, contenuto e risultato. Dichiara l'autore, soprattutto l'impatto del cinema ispirato a 1984 che ha lasciato il segno nella mia memoria, La fuga di Logan di Michael Anderson, Brazil di Terry Gilliam e lo stesso Orwell 1984 di Michael Radford, o ancora L'uomo che fuggì dal futuro di George Lucas, fino a Blade Runner di Ridley Scott. Sono tutti esempi di arte assoluta in cui immagine e musica si combinano genialmente, scaturita da interpretazioni del 1984 sempre ricchi di dettagli diversi. Francesco Gazzara, che è quello che sentite suonare in sottofondo, è un compositore di musiche per il cinema e per la TV dagli anni 90. L'ha lavorato con registi del calibro di Ferrara, Comencini e Del Monte. Con la sua band Gazzara è una delle colonne internazionali dell'acid jazz, lounge and soul, mentre con The Piano Room ha voluto omaggiare il suo amore per il rock colto britannico, c'è certo folk prog e la musica di Canterbury. Voilà, 2084 è il quarto titolo di The Piano Room, dopo The Piano Room 2006, Early Morning del 2007 e Breath Field del 2009, per cui sono 10 anni che non esce un disco di Francesco. Le tre tracce bonus contenute in 2084, in versione pianistica, come sono state scritte in origine, si riallacciano proprio ai precedenti album The Piano Room. Se volete sapere di più su tutto questo, trovate tutto quanto su www.thepianoroom.it oppure su Gazzara. Spero che si dica Gazzara e non Gazzara. Comunque è www.gazzara.org. E per cui ringraziamo Francesca, salutiamo il nostro non amico Formigoni, che stamattina è andato in galera. Capita, se uno ruba, ogni tanto anche in Italia si va in galera. Non so perché sono passato da questa musica a Formigoni. Comunque, invece volevo, l'altro giorno ho visto un film fantastico, che però non mi ricordo più come si chiama, e che parlava di Chet Baker, per cui sono andato alla biblioteca Sala Borsa a prendermi qualche CD di Chet Baker, per cui vi faccio sentire Chet Baker. Just friends, lovers no more. Just friends, but not like before. To think of what we've been and not to kiss again seems like pretending it isn't the ending. Two friends drifting apart. Two friends, but one broken heart. We love, we laugh, we cry. Suddenly love died. The story ended, but we're just friends. Thank you. drifting apart. Two friends, but one broken heart. We love, we laugh, we cry. Suddenly love died, the story ended, but we're just friends. Questo era appunto Chet Baker con Just Friends, registrato il 7 marzo 1955. Sono passati un po' di anni. Invece un altro dei nostri cari amici coxici, adesso lo vado a cercare, Boom Rush Promotions, ci ha mandato un nuovo singolo di una French reggae artist, Jaya, come si pronuncerà? D-J-A-Y-A, Jaya, Jaya probabilmente, visto che è francese, e ascoltiamoci subito questo The System. Yes, I! System, try to keep my people down. Oh, down, up, up, sister. Oh, Babylon, you shall fall. Oh, Babylon, you shall fall. Oh, Babylon, you shall fall. Would you protect I and I forever? Protect I and I. Brother and sisters, his love is greater than silver or gold. His love, oh love, so precious for my soul, so precious for my people. Try to keep the system. Oh, Babylon, you shall fall. Oh, Babylon, you shall fall. Oh, Babylon, you shall fall. Every day they steal my people and let the children in the poverty. What a shame for humanity. What a shame for humanity. What a shame for humanity. What a shame, what a shame, what a shame, what a shame. The system try to keep my people down. Oh, down. The system. Oh, Babylon, you shall fall. Oh, Babylon, you shall fall. Oh, Babylon, you shall fall. Would you protect I and I forever? Protect I and I, brother and sisters, his love is greater than silver or gold. His love, oh love, so precious for my soul, so precious for my people, so precious for my soul. Hey, hey. The system try to keep my people down. Shall fall. Oh, Babylon, you shall fall. Yeah. arte contemporanea. Dunque, ahimè, oggi Fedra non c'è, dicevamo, ma e questo mi dispiace perché mi piacerebbe farle vedere questo libro che ho davanti, che si chiama Trattato di anatomia emozionale, scritto da Andrea Pennisi con i disegni di Virginia Cardarella, che ho non davanti a me ma al telefono con me, perché voi siete in questo momento... Noi siamo a Catania. Siete a Catania e infatti si sente, subito ha fatto un beep un automobilista catanese. E che fantastico. Raccontatemi tutto, che cos'è questo trattato di anatomia emozionale? Dunque, il trattato in realtà è nato da un progetto artistico mio personale proprio a Bologna intorno al 2012. Ed erano una serie di disegni che come tematica avevano sia l'anatomia artistica che i modi di dire che si collegano alle emozioni. Quindi il primo è stato Nodo alla gola, da cui poi sono scaturiti altri tipo lingua biforcuta o farfalle nello stomaco. E di base appunto la linea era quella ispirata un po' ai disegni del Trattato di anatomia di Leonardo da Vinci. Ho sempre immaginato una sorta di professore immaginario che, sezionando un cadavere, trovasse all'interno queste parti aggiunte che riguardano espressamente le emozioni, ma che però vengono caratterizzate e espresse in qualcosa di reale, di concreto, come ad esempio i rospi o un nodo oppure le farfalle, appunto. E da qui ho iniziato a lavorare su queste cose, dove all'inizio, come scrittore, c'erano soltanto delle piccole frasi che dessero un po' la suggestione, non c'era una vera e propria spiegazione. Poi successivamente ho conosciuto e incontrato Andrea, gli ho sottoposto il mio progetto e gli ho chiesto se aveva voglia di collaborare con un testo un po' più corposo. Io incredibilmente sono andato, cosa che non riesco mai a fare per mancanza di tempo, sono andato a vedere le vostre biografie e dunque... Tu sei, cioè intanto i tuoi disegni sono arrivati al Drawing Center di New York, che è un posto importantissimo, e invece Andrea leggo che ha pubblicato e scritto sul male, cioè per cui siete due miti in realtà voi due. In quel caso era un'edizione straordinaria del male, erano gli anni della scelta di Berlusconi e noi con Lillo Venezia, che è il direttore storico della testata, abbiamo impulsivamente provato a frenare questo danno, ma... Fantastico. Il peggio ha sopraffatto il male. Il peggio doveva ancora venire, ahimè. E invece raccontami del Drawing Center. Invece io al Drawing Center ci sono arrivata grazie ad Andrea, che aveva dei contatti con un musicista napoletano che però lavora a New York, che si chiama Marco Cappelli, che era stato chiamato e inserito all'interno di una rassegna creata da John Zorn, che prevedeva l'uso, che in questo caso è all'interno del Drawing Center, e quindi c'era un po' questa tematica legata al disegno. Io in realtà mi occupo anche di video art, appunto avevo questo duo con Marco Cappelli e, visto la location eccezionale e il nostro direttore artistico che ci invitava a interagire con le immagini su un suo concerto, e stavo lavorando su questo progetto dell'anatomia emozionale, ho proposto di fare una parte del concerto con delle manipolazioni video sui disegni originali del trattato. Contemporaneamente abbiamo avuto l'opportunità di esporre le tavole, alcuni testi all'interno del Drawing Center, ed è stato là il primo riscontro di entusiasmo che ci ha spinto poi a realizzare un libro. Fino a quel momento era un progetto espositivo e performativo. No, infatti stavo guardando il simposio d'anatomia emozionale. In che cosa consiste questo simposio? E sta ancora andando in giro? Come funziona? Ebbene, noi abbiamo pubblicato l'anno scorso, abbiamo avuto un riscontro straordinario. Io sono sempre stato legato alla musica di improvvisazione in particolare, perciò caratterialità delle presentazioni che abbiamo avuto in giro per l'Italia è stato quello di invitare diversi musicisti nell'ambito della scena improvvisata per accompagnare queste quadri sonori, no? I diversi capitoli sono le nostre patologie emozionali, che con una voce narrante venivano sottolineate da delle atmosfere sonore diverse per ogni patologia. Da qui ha preso una forma sempre maggiore, finché siamo stati alla Rara Festival con 18 musicisti internazionali legati alla scena della musica improvvisata, piuttosto che al Bacas, fino a quando l'incontro con Cartura è una realtà di teatro di ombre, teatro di figura, dove abbiamo concepito questa messa in scena che ha debuttato lo scorso 8 gennaio al Teatro Santa Cecilia di Palermo e che starà presto in giro in tutta Italia nei festival e stagioni artistiche più audaci e spudorate del pianeta. Fantastico! Ma e dunque ste farfalle nello stomaco come funzionano? Torniamo un attimo a Virginia e alla parte emozionale di questa anatomia, perché non so se i nostri radioascoltatori hanno capito come... Adesso magari ve lo descrivo un attimo. Il libro è veramente... sembra un antico trattato con queste... Poi naturalmente nel nostro sito metteremo il vostro sito, che invece è www.trattatodianatomiaemozionale.it, ma raccontaci che ne so, i metodi per ingoiare il rospo, le farfalle nello stomaco, tutte queste cose, come ti sono saltate in mente innanzitutto? Ma guarda, dunque, in origine l'idea è un po' nata da una canzone rimasta su tutti, dove c'è una frase che mi ha ispirato questa idea, che diceva più o meno quando vuoi scrivere un libro devi prima guardarti dentro o una cosa del genere. Allora niente, ho immaginato proprio fisicamente come potessero essere le emozioni, e quindi le farfalle nello stomaco sono chiaramente quelle, e ho immaginato questo medico che tagliando le trova lì che sfarfallano dentro lo stomaco, collegate ovviamente appunto alle emozioni, e non so, è stato da lì un po' una pioggia di idee che si sono più o meno alternate tra parti del testo che magari prima nascevano quelle, abbiamo fatto un'analisi molto approfondita di quelli che potevano essere i modi di dire che potevamo, perché non è così semplice, non tutti i modi di dire si accompagnano a delle parti anatomiche e viceversa, insomma, quindi abbiamo anche selezionato quelli che potevano essere realizzabili di più anche visivamente, e da lì abbiamo molto giocato e ironizzato su quelle che potevano essere i vari sintomi, appunto come ingoiare il rospo, che è un po' allucinogeno perché rilascia la bufotenina, così come puoi essere colpito da una pule o di un riccio quando hai davanti una persona che non ti vuole proprio tanto parlare. E niente, li abbiamo analizzati anche sulla nostra pelle in un certo modo, e quindi siamo stati ispirati un po' da questo, dal flusso degli eventi che succedevano. Immagino, ma c'è anche il pelo sullo stomaco in tutto ciò? Oppure? Forse il pelo sullo stomaco non c'è. Guarda, devo dire che un po' mi fa piacere, perché sta cosa di dover avere il pelo sullo stomaco è un po', non mi è mai piaciuta e probabilmente non mi piacerà mai. Il libro naturalmente è disponibile nelle librerie, è edito da Peruzzo Editoriale, giusto? E niente, dico ai nostri ascoltatori che chiunque voglia dargli un'occhiata lo trovate sia sul sito di Peruzzo, ma sul vostro sito, che è appunto trattatodianatomiaemozionale.it. Io vi ringrazio tantissimo, siete stati gentilissimi, pensavo di avervi a Bologna, ma siete a Catania, per cui non proprio a un tiro di schioppo, ma naturalmente vi invito a venirci a trovare quando sarete da queste parti. Sì, io ho una base lì, quindi capiterà sicuramente. Fantastico, allora ti aspettiamo, che sicuramente questo libro piacerà tantissimo anche a Fedra, che è la mia collega che si occupa più di teatro, proiezioni, cose performative, eccetera, e sicuramente le piacerà moltissimo. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Allora, a prestissimo. A prestissimo, ciao. Ciao, buon ascolto. Ciao. Ciao. Her knees, feet, and elbow work the thing into a mumba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. just show her a little swing. Siamo qui con Iro Nicolaou, che è una giovane curatrice greca che in questo momento si trova a Londra, per cui l'ho battezzata come la mia corrispondente da Londra e volevo chiederti che cosa sta succedendo, cosa c'è di bello nel mondo dell'arte contemporanea a Londra in questo momento. Ciao Stefano. Ciao Iro. Londra è soleggiata in questi giorni, è una grande opportunità di vedere la mostra che crea un dialogo tra i lavori di video arte di Bill Viola e gli schizzi e i disegni di Michelangelo Buonarroti alla Royal Academy of London a cura di Andrea Tarsia. Il titolo della mostra è Life, Death, Rebirth, che sarebbe vita, morte e reincarnazione, no? Come si dice? Rinascita, thank you, vedi, lo sai meglio di me l'italiano. Poi è una opportunità unica di vedere per la prima volta insieme alcune delle opere più importanti della lunga carriera di Viola e anche alcuni dei più importanti disegni di Michelangelo, che sono due artisti divisi da secoli, ma allo stesso tempo due artisti che hanno come un punto di partenza della loro ricerca e pratica artistica l'esistenza umana e l'esperienza sulla vita, la morte e la rinascita. E poi c'è un'altra molto molto interessante mostra, quella di Tracy Emin alla White Cube a Bermondsey. Il titolo della mostra è A Fortnight of Tears, 15 giorni di lacrime. Di lacrime. Mm-hmm. Che include sculture neon, dipinti, sculture in bronzo e poi anche 50 selfies dell'artista durante le ore di insonnia. E tutti questi lavori esplorano tematiche femminili e riguardano grandi momenti emotivi della vita dell'artista. È una mostra intima, che crea una narrazione di Tracy Emin, la donna, l'artista, l'amante, la figlia, cioè come un metodo di self-examination. Autoesame. Sì, sì, esatto. Interessante, effettivamente il lavoro di Tracy Emin è sempre stato molto psicologico, possiamo dire, in un certo senso, anche se la sua comunicazione lavora su più livelli di senso, tra cui uno abbastanza basico che è quello poi che secondo me l'ha fatta diventare così famosa, no? Esatto, sì. Ma questo White Cube di Bermondsey dove sarebbe? Che io forse non ci sono mai stato, ho paura che sia nuova. No, è vicino a London Bridge. Ok. Mm-hmm. Perché io mi ricordo che quando è nata White Cube era piccolissima ed era vicino a Piccadilly. Sì, ci sono tanti posti diversi. Adesso invece quante White Cube ci sono? Due o tre, non mi ricordo. Ok. White Cube, ricordiamolo, è la galleria cominciata da Jay Joplin, che era l'agente di Damien Hirst prima che lui avesse una galleria, appunto. Esatto. Ed è stato uno dei maggiori, cioè dei personaggi chiave per la nascita degli YBA, che ormai non sono tanto Y per niente, ormai sanno cosa hanno, 50 anni i giovani artisti britannici. Ma dopo gli YBA è successo qualcosa di entusiasmante a Londra? No. Ah no, addirittura. Io saranno 5 o 6 anni che non vengo che non vengo a Londra. Però effettivamente la cosa che mi ha colpito, cosa che prima quando c'ero stato le volte precedenti non era così evidente, era il fatto di vedere dell'arte contemporanea veramente dappertutto. Sì, sì, sì, sì. E questa è una cosa abbastanza unica al mondo. Sì, diciamo, sì, ma ci sono tanti diversi posti che sono molto molto interessanti. Esatto. È una cosa bellissima. Ma invece mi ricordo anche questa cosa che a Trafalgar Square c'è un plinto vuoto che negli ultimi anni hanno dato in gestione, diciamo, cioè c'è un concorso che un artista contemporaneo può riempire per un po' di tempo il plinto vuoto. In questo momento sai cosa c'è? Sì, si chiama il competition di fourth plinth. Ah, il quarto plinto. Ok. Adesso c'è Mike Rakowitz. Mike Rakowitz, non lo conosco. Mike Rakowitz, oh, you should. Mike Rakowitz è un artista iracheno-americano. Mm-hmm. Che è il suo punto di partenza per la sua ricerca e pratica artistica è la storia di Iraq. Uh-huh. E lui tra di creare un dialogo tra Iraq e America. Non un dialogo facile, immagino. No, non è facile. E dunque che cosa ha messo sul plinto? Ha messo una scultura che assomiglia alle sculture storiche di Iraq. Della Babilonia, tipo? Sì, diciamo sì. Ok. Interessante. E il pubblico come reagisce? Capisce il lavoro oppure pensa che semplicemente abbiano messo una copia di una statua babilonese? Forse sì. Perché la cosa che a me mi ha sorpreso è di Londra, proprio quando l'ultima volta che ci sono stato, che ho visto così tanta arte contemporanea in giro, è il fatto che un sacco di persone comuni che ne so, in Italia o in Grecia non sarebbero interessate all'arte contemporanea, in un certo senso lo diventano, un po' come negli altri paesi per il cinema o la musica pop, proprio per il fatto che è costantemente, no, on the news. Sì, ma public art fa una grande parte della città. Certo. Arte pubblica, sì. E dunque ti trovi bene a Londra? Sì, abbastanza bene. Molto bene. Io ti ringrazio e poi naturalmente ti invito a raccontarci le mostre che vedi a Londra quando vuoi, anche in tutte le puntate di Coxo Spaziale. Oh, grazie mille. Tu naturalmente ci ascolti sempre, vero? Sì, sempre. Sì, sempre. In diretta poi. Bene, grazie mille a Iro Nicolao e poi ci sentiamo prestissimo. Un bacio. Ciao ciao. Sitting with a slapper, then I see it's a pimp and it's Zesper. Okay. I guess I'll speak to you later then. Questo naturalmente era LDN di Lily Allen, ovvero London di Lily Allen, un pezzo del 2008 che non sono più riuscito a trovare, avevo l'intero disco in MP3 ma non l'ho ritrovato, per cui ammetto di avere preso questa versione da YouTube, e il bello di internet è che si trova tutto più o meno. Detto questo, l'angolo della menzione. Eccoci arrivati al nostro consueto appuntamento con l'angolo della menzione. Dunque, domani alle ore 21 la compagnia milanese La Petit Mort Teatro presenta lo spettacolo Money di Tommaso Fermariello, autore e regista, con Giuseppe Attanasio, Gianluca Bozzale, Sofia Poli e Martina Testa. 10 anni dopo l'arrivo della crisi economica occidentale, il mondo è ancora sotto sopra. 4 ragazzi, per risparmiare, vivono insieme in un piccolo appartamento. Sono membri della classe disagiata, troppo ricchi per accontentarsi, troppo poveri per poter sopravvivere. C'è chi studia, chi fa 2 lavori, chi è un performer disoccupato, chi non vuole alzarsi dal divano, fino a quando inaspettatamente un giorno la loro grande occasione arriva. Money è una favola noir metropolitana che rappresenta il sogno e l'incubo di una generazione. I soldi è un racconto cinico a tinte forti, pervaso da un'atmosfera palpa e dissacrante, che trae ispirazione dal cinema e dalla sociologia. La rassegna ha ricevuto il patrocinio del quartiere San Donato, San Vitale, bla bla bla. L'ingresso è a offerta libera e siamo al Camera d'Aria, che sarebbe, adesso vado a cliccare perché non trovo l'indirizzo, ma lo troverete domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Invece domenica 24 febbraio alle ore 17, Infanzia Berlinese, Walter Don't Smile Don't Trot, al teatro Walter Benjamin, uno spettacolo di Rosario Tedesco liberamente tratto da Infanzia Berlinese di Walter Benjamin, con Nicola Bortolotti e Rosario Tedesco e con Baby Fashion Helen Ruffo in collaborazione con il MEB. Ingresso libero, e questo è l'Istituto di Cultura Germanica in via De Marchi 4 a Bologna. Dopodiché c'è quasi tutta una settimana, fino a venerdì della settimana prossima, il 1 marzo, che alle 13 a Palazzo Comunale d'Accursio, in Piazza Maggiore, ci sarà la cerimonia per il ricollocamento dell'opera di Giuseppe Romagnoli, L'amor patrio e il valor militare, nella sua sede originaria sulla facciata di Palazzo d'Accursio in Piazza Maggiore a Bologna. Dopo ben 75 anni, le due statue di Romagnoli tornano a ornare l'ingresso principale di Palazzo d'Accursio su Piazza Maggiore, nello spazio vuoto sul lato destro della porta d'ingresso, assieme alla lapide dedicata al re Umberto I. L'intero progetto è stato fortemente voluto e realizzato dall'imprenditore bolognese e mecenate Francesco Amante, con approvazione dell'assessorato alla cultura e alla promozione della città, Matteo Lepore, all'assessore, naturalmente in collaborazione con il Comune di Bologna. E questo è venerdì 1 marzo alle 13. Sempre venerdì 1 marzo, ma stavolta alle ore 18, c'è Scioperate, e di questo invece vi faccio parlare direttamente la nostra cara amica artista Chiara Pergola. Ciao Fedra, ciao Stefano. L'evento che vi volevo segnalare si terrà venerdì 1 marzo alle 18 alla Libreria delle Donne di Bologna, ed è un'iniziativa a sostegno dello sciopero globale femminista dell'8 marzo e del movimento Non Una di Meno che lo sta organizzando. Saremo io e Ivana Spinelli e ci siamo domandate che cosa significhi per un artista scioperare, dal momento che quello che facciamo spesso, soprattutto in Italia, mi verrebbe da dire, non è considerato come un lavoro. Per rispondere a questa domanda abbiamo deciso di invitare tutti quelli che sono interessati a ragionare con noi in un incontro all'interno del quale produrremo dei lavori che potranno essere acquistati e il cui ricavato andrà interamente a sostegno del movimento Non Una di Meno. Sarà un laboratorio sia di azione che di pensiero e sarà anche una call per invitare altri artisti e altre artiste a fare lo stesso, cioè a lasciare opere grafiche alla Libreria delle Donne di Bologna in modo che poi chi le desidera le possa acquistare, sapendo che l'intero ricavato andrà a sostegno delle iniziative del movimento Non Una di Meno. Il titolo che abbiamo pensato per questa iniziativa è Scioperate, nella doppia accezione di adesione allo sciopero e anche di forse aggettivo che qualifica la nostra attività, visto che è considerata dalla maggior parte delle persone, almeno nel nostro paese, una grande perdita di tempo. Ma mi piacerebbe riuscire a farvi arrivare anche la voce dell'assemblea e vediamo se riesco. Fate come noi, scioperate! If it takes too long to hit me back, I can't promise you how I'll react. But all I can say is at least I'll wait for you. Lately I've been on a roller coaster, trying to get a hold of my emotions. But all that I know is I need you close. And I'ma scream and shout for what I love. Passionate but I don't give no fucks. I admit that I'm a little messed up, but I can hide it when I'm all dressed up. I'm obsessive and I love too hard. Good at overthinking with my heart. How you even think it got this far? This far. I can be needy, way too damn needy. I can be needy. Tell me how good it feels to be needed. I can be needy, so hard to please me. I know it feels so good to be needy. Sorry if I'm up and down a lot. Sorry that I think I'm not enough. Sorry if I say sorry way too much. You can go ahead and call me selfish, but after all this damage, I can't help it. But what you can trust is I need your touch. I'ma scream and shout for what I love. Passionate but I don't give no fucks. I admit that I'm a little messed up, but I can hide it when I'm all dressed up. I'm obsessive and I love to. E dunque anche questo 255esimo Coxo finisce qui. Salutiamo il nostro caro Giffo, che sicuramente ci avrà ascoltato chiedendosi come mai non eravamo in diretta. Salutiamo naturalmente Fedra, che dovrebbe essere verso il Veneto anche lei e non in diretta. E ci vediamo come al solito venerdì prossimo, anzi avremo un super ospite d'eccezione, posso già anche spoilerarlo. Fabio Lanaldi sarà con noi venerdì prossimo in diretta qui sempre sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM oppure online su www.radiocittafujiko.it. Io ero Stefano W. Pasquini e questo era Coxo Spaziale. Ciao! I thinking, what the fuck was I thinking?